continue the activation of that module along with getting all of the science. Le operazioni per agganciare il Columbus al nodo 2 della Stazione Spaziale Internazionale sono state più lunghe del previsto e la passeggiata spaziale è durata quasi 8 ore. Ma alla fine tutto è andato per il meglio. Columbus ora è parte integrante della stazione orbitale. Il grande cilindro, pesante 10 tonnellate, lungo 7 metri e dal diametro di quasi 4 metri e mezzo, è costato più di €1 miliardi e potrà ospitare 500 esperimenti ogni anno per 10 anni. Il laboratorio è stato realizzato da numerose aziende europee guidate dalla Astrium e dalla Thales Alenia Space di Torino. Atteso da anni e più volte posticipato a causa di problemi e incidenti, l'arrivo del laboratorio realizza l'obiettivo per cui è nata la stazione spaziale: fare ricerca in assenza di gravità per l'università e l'industria. Nelle prossime ore verranno completati gli ultimi preparativi prima di aprire finalmente il portello che collega la stazione al laboratorio europeo e renderlo dunque pienamente operativo e disponibile per l'inizio delle attività di ricerca. Gigi Donnelli, GR24, Sole 24 Ore.